Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Lo scansuolo dall'ultimo sussulto al campionato. Ma per favore, filo Juventini, ma per favore. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Alessandro sbaglia, diventa un assist per Rebic, 4-2 Milan, blackout bianconero. Malinowski si coordina, Malinowski 2-1 Atalanta. Berardi va sul destro, il tiro cross, Caputo, Sassuolo in vantaggio, Caputo 3-2. Ma sai, a tratti questa squadra lascia la sensazione di avere un potenziale molto molto elevato, e a tratti ti lascia più perplesso, perché a questi momenti di passività cui gli avversari arrivano troppo facilmente dentro la nostra area di rigore. L'obiettivo, c'è due possibilità, o lo centri o non lo centri. Certo. E quindi noi abbiamo questo vantaggio di 6 o 7 punti e bisogna fare 9 punti nelle prossime partite. Quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto senza stare a calcolare le possibilità e tutto il resto, perché l'ho detto, lasciano veramente il tempo e troppo. Pierluigi Pardo, Radio Twitta. Allora, a parte che mi faceva ridere lo scansuolo, io ogni tanto mi dimentico poi delle varie ironia dei tifosi che invitiamo, 349-238-6666 oltre alle telefonate, vai. No, il Radio Tweet è sulla imprevedibilità di questo campionato. Io oggi ti dico, farò proprio gonfierò il petto, perché insomma chi ci ascolta tutti i giorni sa che io vedo qualcosa nella Juve che non va, e quindi chiedo sempre di aspettare. Adesso vi chiederò di aspettare fino a Juve-Lazio, sì, perché ancora non ci sono segnali, secondo me, di campionato chiuso. C'è forse anche la componente legata a questo calendario, all'imprevedibilità di tutto questo, al fatto che si giochi in tre giorni. Forse ogni cosa pesa di più rispetto a un campionato normale, anche un passaggio a vuoto, forse anche psicologicamente pesa di più, perché non c'è tempo per recuperare. Insomma, la variabilità del campionato sicuramente è cresciuta, sì. E poi adesso andiamo nello specifico a capire perché, e certo, credo insomma la Juve meriti un'analisi molto approfondita. E io non potevo non chiamare Fabrizio Biasini e Franco Ordine oggi per commentare la giornata di campionato, ma anche le aspettative di chi insegue, non tanto quelle della Lazio quanto quelle dell'Inter e dell'Atalanta. Parto da Fabrizio Biasini, che saluto perché devo congedarlo tra 5-6 minuti perché ha non meglio precisati impegni. Non so se Franco Ordine ne sa qualcosa. No, io non ne so qualcosa, ma devono essere sicuramente degli impegni domestici, perché lui è praticamente... Non lo so. È un impegno lavorativo. Anzi, vi dirò di più, c'entra Adriano l'imperatore. Pensa a te. Allora facciamo un impegno lavorativo, Biasin, due punti, un impegno lavorativo, facciamo subito un'agenzia con le crocette. La bomba atomica che ho lanciato, lavorativo addirittura. Senti, la domanda è... Può la Juventus, due punti e 9 gol subiti nelle ultime 3 partite, buttare lo scudetto? No, secondo me lo scudetto è... Adesso ognuno farà gli scongiuri del caso, ci mancherebbe. Ma secondo me lo scudetto non è in discussione, anche se ieri abbiamo visto la Juventus in difficoltà, l'abbiamo vista con l'Atalanta, abbiamo visto che non è la solita Juventus. Oggi è il giorno delle critiche corpose a Maurizio Sarri, che sicuramente ha qualche responsabilità, diverse responsabilità. Secondo me ce le ha di più chi ha deciso di fare la rivoluzione a metà, cioè prendiamo l'allenatore per fare un certo tipo di gioco, ma non gli prendiamo i soldati. La Juventus è una squadra fortissima, ma non è la squadra ideale di Maurizio Sarri. Poi ci sono gli allenatori come Pioli che invece fanno, fanno il brodo buono con le ossa che hanno. Ciccio, rispondi tu al domandone, la Juventus può buttare lo scudetto? Sì, se dovessi incontrare ancora con Sassuolo e Atalanta. Allora no. E quindi solo e soltanto per questo motivo, diciamo, a parte l'ostacolo Lazio, il prossimo ostacolo Lazio secondo me poi può andare dritta verso la conclusione della stagione. Però è evidente che ormai siamo dinanzi a una condizione come dire, calcistica molto chiara e molto trasparente. Signori miei, qui c'è un allenatore che parla una lingua con una alle prese con una squadra che parla tutta un'altra lingua. Per cui potete tenerlo non un anno, potete tenerlo 10 anni, ma non si capiranno mai. Il problema è questo ed è fondamentale perché Sarri ha potuto parlare. È un problema che si conosceva all'origine, cioè quando l'estate scorsa. Ma perché all'origine? Però... La superficiale, il convincimento superficiale di chi ha la responsabilità dell'area tecnica era questo: io prendo la macchina. Prendo questa macchina che è abituata a fare il Gran Premio, gli metto alla guida il pilota che fa dello spettacolo, dei sorpassi in curva, eccetera, quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno, e ho risolto il problema. Invece il problema è che Sarri si è messo alla guida, ma spinge i pedali, schiaccia l'acceleratore, i comandi non rispondono. Sì, Pierluigi Pardo ha visto la Juventus negli ultimi tempi più di tutti noi. Commentato tardi a Biasin, però alcune cose da dire ce l'ho. Allora, la prima cosa è che uno fa una rivoluzione, ma Sarri è un allenatore sicuramente con il suo credo calcistico, ma è un allenatore fatto e finito che veniva comunque da una Europa League vinta col Chelsea. È chiaro, e io sono d'accordo, che questa non sia la sua squadra dei sogni dal punto di vista della concezione. Così come, tanto per fare un esempio, ieri parlavamo del fatto che quando è arrivato Eriksen, Conte non è che proprio sia impazzito di gioia, perché probabilmente avrebbe voluto un altro giocatore. Però i grandi allenatori nei grandi club vengono chiamati anche per gestire queste situazioni qui. Esatto. Quindi io dico che se siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, io non lo so se bisogna capire qual è, perché la Juventus ha avuto l'esigenza di cambiare tecnico. Cioè, avevi il maestro della gestione. La Juve ha preso Sarri per fare una scommessa calcolata sul fatto di tornare a essere ancora più competitiva in Europa. Ti sento più, chiudo con, recuperiamo la linea, ma voglio chiudere con Fabrizio Biasin aggiungendo una domanda, poi ti saluto e ti lascio ai tuoi impegni lavorativi, Fabri. Allora, io sono d'accordo con quanto stava dicendo Pierluigi Pardo, cioè un grande allenatore deve anche non essere così integralista e provare a far rendere al meglio quelli che ha. Quanto sono grandi i rimpianti dell'Inter in questo momento? Beh, in questo momento secondo me non c'è spazio per i rimpianti. I rimpianti semmai li tiri fuori a fine campionato. In questo momento ti devi concentrare sul finale di campionato, perché in un modo o nell'altro l'Inter in qualche maniera è ancora in corsa, cioè ha 5% di possibilità. E allora i rimpianti ne parli dopo, sì. Adesso devi pensare a fare i punti. 18. Però è chiaro che hai buttato via tantissime occasioni. Appunto. Perché se al 60esimo di Inter-Bologna l'Inter fa minimamente l'Inter, ha 3 punti in più, perché ha veramente buttato via un sacco di punti. Però con i seno si fanno le classifiche, e quindi in questo momento l'Inter deve pensare a vincerle tutte e poi vedere cosa succede davanti. Ciao Fabrizio, buon lavoro. Ciao ragazzi, un abbraccione a voi. Poi ciao, ci farai ciao. Sapere. Aspetta, non riesco a sentirti. Allora sento Franco su quello che ha detto, su quello che stava dicendo Fabrizio, ma anche sulla replica a te di Pierluigi, e cioè, insomma, non ha preso... Allora, l'obiezione di Pierluigi è pertinente, e cioè un allenatore, come dice lui, fatto e finito, deve essere in grado poi in qualche modo di adattarsi, in qualche modo di farsi... concavo o convesso a seconda delle circostanze, sì, nei confronti di questo gruppo. Però ammesso e non concesso che lui lo abbia fatto, in qualche modo è venuto meno sia il motivo per il quale è stato chiamato a, al capezzale di, chiamiamolo così, della Juventus, e sia qual è il suo DNA calcistico. Sì. Ora, diciamoci la verità, sono due gli esempi, perché Sarri fa benissimo all'Empoli, che non è sicuramente una squadra di primo livello, però gioca in modo così geometrico, così articolato, così organizzato, da suscitare l'interesse anche del Milan. Sì. Poi non si combina con il Milan e va a Napoli. Sì. Lì trova. È come quando tu cambi ufficio. Sì. E il capo ufficio, il manager, che passa da una situazione all'altra. Ideale, trovi una situazione ideale con giocatori motivati, terreno, disposti a seguirlo. Il terreno fertile nel quale lui può inserire il suo seme, e lì fiorisce la spiga di grano del calcio di Sarri. Sì. Nel caso di Torino, della Cardinale, ci sono già gli alberi alti 2 metri. È difficile dire ricominciamo da capo, ariamo il campo e rimettiamo il seme. Ma sai, Franco, io penso una cosa: che quando tu sei un allenatore top, devi avere una capacità di adattamento, di compromesso, se vuoi, uso volutamente una parola che spesso viene considerata una brutta parola, trovare una quadra, un punto di equilibrio fra quelle che sono le tue idee, la tua filosofia, il tuo gusto personale e quello che la squadra riesce a fare meglio. Adesso sono passati mesi, sono d'accordissimo, in mezzo, però Pier, questa cosa non è successa. Pier, ragazzi, facciamo un passo indietro, perché io e te tutti i giorni per molto tempo, ormai diversi mesi fa, dicevamo Sarri ha approcciato in fondo bene questa avventura alla Juventus, perché si è dimostrato più duttile, non si è dimostrato così integralista. Adesso è chiaro che noi commentiamo la cronaca, però il fatto è che ci troviamo di fronte ad una squadra che è intermittente come una lampadina di Natale, e a Natale è ammissibile, adesso no. Questa cosa succede spesso, e mi viene in mente Ancelotti nel post-Sarri a Napoli. Cioè, molto spesso, quando c'è un cambio importante, su una panchina importante, proprio di mentalità e di filosofia, e cito proprio a favore di Sarri, l'esempio di Napoli, no? I primi mesi del Napoli di Ancelotti sono stati mesi buoni, nei quali Ancelotti ha avuto l'intelligenza e la capacità di probabilmente non snaturare troppo le certezze della squadra. A me sembra che alla Juve di quest'anno sia successo più o meno la stessa cosa. Sì. Cioè, i primi mesi si andava con una, come dicevi tu giustamente, con la continuità rispetto al passato. Io quello che ho visto ieri in Sassuolo-Juve è clamoroso, al netto dei meriti del Sassuolo e al netto del fatto che la Juve all'80% vincerà il campionato, e giustamente se questo accadrà sarà orgogliosa, ci mancherebbe altro, perché poi stiamo parlando sempre della capolista, però proprio perché parliamo di una squadra che ci ha abituato a vincere da così tanti anni, vedere quello che, cioè, ieri la Juve ha preso 3 gol con Szczęsny che ha preso 8 in pagella andando avanti 2-0 dopo 12 minuti. Tu stesso hai fatto la telecronaca di Milan-Juventus, cioè là potevamo catalogarlo come episodio, di Juve-Atalanta, come un incidente. Pure, hai forato tutte e 4 le gomme in contemporanea, un incidente, sì, benissimo. Però infatti tu dopo Milan-Juve mi hai detto che facciamo, io ho detto aspettiamo Juve-Atalanta, dopo Juve-Atalanta ti ho detto aspettiamo Sassuolo-Juve, e francamente erano in pochi a pensarlo. Adesso ti dico aspettiamo Juve-Lazio, anche perché io ieri ho visto 50-50 da Lazio e la Juve. Io la Lazio l'ho vista in crescita, non è ancora la squadra brillante di qualche tempo fa, poteva anche perdere, l'Udinese ha avuto le sue occasioni, però ho visto una squadra che fino all'ultimo minuto, insomma, non ho visto una squadra rassegnata, ho visto una squadra che fino agli ultimi minuti ha cercato di vincere la partita, ha avuto delle occasioni, le ha anche concesse, alla fine il pareggio ci sta perché l'Udinese ha avuto occasioni, anzi forse ha avuto anche le più nitide, però ho visto una squadra sicuramente migliorata rispetto ad esempio al Lazio Sassuolo, per cui ti dico aspettiamo lunedì. Sì, e ma aspettiamo poi, quanto ai rimpianti dell'Inter, se vuoi apriamo un libro. Sì. Ce l'hanno tutti i rimpianti, anche la Juve ha buttato via dei punti, per carità. E però la se Lazio, tu vuoi rubare lo scudetto alla Juventus, devi essere pronto, come aveva fatto la Juventus di Conte con il Milan, devi essere pronto sotto la finestra, se questi buttano giù il tesoro, tu devi essere pronto a prenderlo, anche se... Quelli dell'Inter, sono d'accordo con te, fanno più effetto, almeno per me, perché l'Inter li ha buttati adesso, nel post-lockdown, con un calendario che sembrava abbastanza semplice, cioè, abbiamo visto che il Sassuolo non è semplice, ha fatto 3-3 con tutte e due, ha vinto l'Olimpico contro la Lazio, e però insomma vai avanti 2-1 e 3-2 col Sassuolo con quelle palle gol, vai avanti 1-0 con l'uomo in più col Bologna, sei all'88esimo avanti a Verona e perdi 7 punti, insomma fate due conti. Poi tutti hanno i loro rimpianti, l'Atalanta ha i suoi rimpianti legati agli scontri diretti e legati anche ad alcuni punti buttati nella prima parte della stagione, secondo me per una normale crescita che si è portata dietro qualche impaccio della primissima parte della stagione. La Lazio ha i suoi rimpianti perché sicuramente è crollato dal punto di vista fisico nel momento più bello, quindi poi forse alla fine lo vincerà la Juve, ma una fatica non immaginabile. Prima ieri è una partita, io non so se gli ascoltatori l'hanno vista tutta, ma cioè sul 2-0 il Sassuolo ha avuto 4 palle gol nitide per andare sul 2-1. Szczęsny migliore in campo, peraltro, per chi non l'avesse vista. Allora, fermiamoci un istante. Franco, tu stai lì. C'è anche un ascoltatore che è Marco da Rimini. Voglio parlare anche del Milan, che a me piace tantissimo. Sassuolo girano più Ferrari che 500, però la Juventus non gira mica Sassuolo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbiamo avuto bisogno di tempo e adesso stiamo raccogliendo i frutti non solamente del lavoro fatto durante questa pausa, ma i frutti di tutti questi 5-6 mesi di cui stiamo lavorando insieme. Secondo me Bologna in questo momento ha... Fai diventare rosso. No, perché la verità ti assomiglia, una squadra che non molla mai. La mia squadra, io ho detto che oggi venivamo qua a fare non una passeggiata, ma dovevamo giocare una partita vera. E così il secondo tempo non lo è stato. Vi sentite un po' simili, eh? Io penso che Sinisi... Vi riconoscete un io po'? Io penso che Sinisi è più cazzuto di me. Io abbaio, ma mordo poco. Secondo me quando lui abbaia, abbaia meno, ma quando abbaia ti lascia il segno. Meraviglioso. Tre ex allenatori del Milan. Pioli, che ormai ex lo sanno tutti, Gattuso e Mihajlovic, guarda caso. Senti, Franco, vuoi rispondere, vuoi dirmi la tua sull'Inter invece? Quanto è alto il monte dei rimpianti? Sì, no, è molto alto obiettivamente, perché poi ha perso punti non con le prime della classe, e questo è ancora, e poi soprattutto lo ha perso non per un demerito, per un errore, uno spondone, una formazione sbagliata del suo allenatore, perché questo è il punto che secondo me va chiarito e va messo in risalto per evitare clamorosi equivoci. L'Inter ha tutti questi rimpianti perché c'è un giocatore che a porta vuota, a 2 metri dalla porta, prende la curva nord anziché fare gol. Sì. Garrone, Lukaku decide. Aspetta, però, che... anche per un sacco di gol bizzarri presi, compreso quello di Verona. Quelli vengono dopo. Ho capito. Poi però... se sull'1-0 in 11 contro 10 c'hai il rigore che può mettere sotto chiave la partita, e c'è Garrone, Lukaku che dice no, mi dispiace per Franti, facciamola tirare a Franti, e Franti la butta sul portiere, l'invia, e sempre Gagliardini la ributta sempre in braccio al portiere. Questi sono obiettivamente i rimpianti dell'Inter, e allora dinanzi a questi rimpianti tu devi fare due considerazioni. Primo, che se sul lavoro di Conte, al di là della mancata qualificazione di Champions, secondo me non ci sono censure. Secondo punto, io ho l'impressione che il lockdown vissuto da Conte sia stato vissuto molto male. Sì. Non è un mistero che l'Inter sia stata una di quelle squadre, una di quelle società sì, che non sono d'accordo. Sono d'accordo. Credo che quell'atteggiamento possa aver influito. Certo. Sono d'accordo, però, ci pensavo altri giorni. Sì, fino a un certo punto, perché in realtà secondo me l'Inter ha fatto anche delle buone partite, ad esempio contro il Napoli in Coppa Italia è uscita, ma ha giocato una buona partita. No, io credo che siano state più delle... Allora, innanzitutto nessuno poteva immaginare un finale così complicato per la Juve. La Juve è la squadra che negli ultimi anni ha sempre vinto, e io capisco anche che psicologicamente se stai 6 punti, 8 punti dietro a una squadra che vince da 8 anni... probabilmente non hai la percezione di quello che ti stai giocando, per cui poi commetti delle ingenuità, come il famoso rigore concesso che si è rivelata un'ingenuità, e probabilmente hai qualche calo di concentrazione che in condizioni normali non avresti. Poi c'è secondo me qualche limite strutturale appunto della squadra, perché poi sei arrivato a giocarti la fase più calda della stagione con un centrocampo, tanto per essere chiari, che non era, diciamo, improvvisato, no, no, quindi, assolutamente. Una serie di elementi oggettivi, ma secondo me c'è stata anche un po' forse di sottovalutazione della possibilità. Sì, sono d'accordo. Questo, ragazzi, occhio, perché stasera io sto andando a Ferrara, sono partito adesso, e stasera se l'Inter vince, innanzitutto va a seconda in classifica. Va a seconda in classifica. Ha una partita domenica complicatissima, perché la Roma ha recuperato un buon passo, perché gioca all'Olimpico. Però insomma, cioè, se l'Inter fa 6 punti, difficilissimo, perché non è facile farli, visto che la Roma in questo momento sta bene, ma se fa 6 punti fra Spalla e Roma, insomma, la Juventus va in campo con la Lazio a più 3. Mette una bella pressione. Sì, sono d'accordo su questo, e sinceramente... Quando vince la Juve rimane la strafavorita. Sicuro. Però, insomma, andrebbe... Però vedere uno Juventus-Lazio con l'Inter a meno 3, che poi si legano meno 4 per effetto dei confronti diretti, certo, però sarebbe certo divertente. Marco da Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, a proposito di Inter, io prometto, faccio il camionista, e quindi lungi da me dare giudizi tecnici che chiedo voi, perché vi reputo esperti e competenti. Questo Eriksen, che a mio parere ha tecnica, è un gran giocatore, magari non avrà una grande personalità. Nel modulo di Conte, che ha tante, diciamo, Conte ha tante caratteristiche positive, temperamento e tutto, però mi sembra un po', come dire, di cemento sul suo 3-5-2, no? Il ruolo famoso del regista davanti alla difesa non potrebbe farlo proprio Eriksen? Fare un po' il pirlo, non vorrebbe stemmiare paragonando i due, però ha comunque visione di gioco, tiro da fuori, e potrebbe avere alle spalle magari a fianco due incontristi come Brozovic e Barella, per fare un esempio. Mi sembrerebbe uno schema di gioco più funzionale, vorrei un vostro parere, grazie. Sì, glielo diamo subito, sentiamo anche Lorenzo da Milano, così poi andiamo con un commento finale di Pierluigi e di Franco. Lorenzo, prego. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io ho prima di tutto una curiosità, nel gol che ha fatto ieri sera il Sassuolo, quello dove ci sono stati 5-6 rimpalli, mi potete aiutare a dire se l'ultimo a toccare la palla prima che il giocatore Sassuolo fa gol è Betancourt o è Caputo da terra? Insomma, questa è una curiosità, ci terrei a saperlo perché non si capisce dalle immagini. La considerazione è questa: io ho sentito un'intervista di Aurelio De Laurentiis dove diceva che praticamente il suo pensiero è che lui non ha l'anello al naso e quindi non spende i milioni di euro per comprare, è inutile spendere i milioni di euro per comprare, che ne so, Cavani, Icardi, quando invece Ciccio Caputo sta facendo quello che sta facendo. E poi il giorno dopo praticamente dicono che comprano l'acquisto più costoso del Napoli dopo Lozano, è quello di un giovanotto che ai più che non masticano calcio tutti i giorni è sconosciuto. Quindi volevo però sapere il mestiere cosa dei dirigenti è anche conoscere questi giocatori. Io lascio la risposta a Franco Ordine e la replica a Pierluigi. Allora, intanto se Ciccio Caputo avesse avuto non 32 anni ma l'età del giovanotto sconosciuto che arriva al Napoli, probabilmente avrebbero preso Ciccio Caputo. Sì. Dico che è evidente che il format del Napoli De Laurentiis è prendere i giocatori e provare in qualche modo a valorizzarli. Certo, prendere un giocatore a 60 milioni, se sono giuste, esatte queste cifre, obiettivamente è una bella scommessa. Mi sembra una controindicazione. Sì, Eriksen alla Pirlo? Secondo allora, me Eriksen... Vai. Vai Pier. No, vai. Dai, Franco, alla Pirlo, secondo me tra 10 anni, tra 7 anni, tra 8 anni, nel senso che Eriksen sicuramente ha le caratteristiche tecniche per poter fare il centrocampista davanti alla difesa, ma in questo momento, per quella che è la qualità di Eriksen, secondo me è togliersi qualcosa. Eriksen è un giocatore che potenzialmente va in doppia cifra come gol, che se gioca per l'ultimo passaggio davanti alle spalle di un attaccante può far benissimo. Non sono d'accordissimo con l'ascoltatore quando dice forse avrà poca personalità, è una cosa che ha detto Sian Passan, che probabilmente si lega a questo inizio non facile d'Italia. È un giocatore che per chi lo segue in Inghilterra la personalità ce l'ha sempre avuta, era un trascinatore di quel Tottenham, quindi francamente io penso ci sia un tema tattico. Accolgo la suggestione dell'ascoltatore, perché sicuramente sì, dal punto di vista di Conte potrebbe pure essere una soluzione, però oggi significherebbe togliergli buona parte del suo potenziale e farlo giocare fuori ruolo. Sono d'accordo. Io credo che Conte sia bravo, bravissimo, e troverà una soluzione. Sì. E troverà un modo per, anche perché non stiamo parlando di un allenatore integralista. No, no, certo. Però Conte aveva cominciato 4-4 ai tempi di Bari. Non ti sento più, ma tanto dobbiamo chiudere il collegamento. Però io penso che invece il nostro radioascoltatore abbia avuto un'intuizione, quella che solitamente si può passare come genialata. Sì. Perché secondo me ha le caratteristiche geometriche per, sì, fare quel lavoro. Certo, nel 3, giocando con il 3 dietro in difesa, quello che fa il perno centrale ha anche il compito di recuperare, certo, palloni. E per questo e ti questo dico, può non farlo, ha le caratteristiche. Franco, può farlo, bisognerebbe chiederlo a lui se ha voglia di farlo, certo, perché per fare quel ruolo lì devi avere un ti giocatore che un è disposto di a farlo. Ti faccio un esempio di scuola al volo. Tu te lo immaginavi che sì, che anziché fare 754 volte 40 metri, adesso fa il metronomo dietro al fianco di Bennacer? Io francamente no. È venuta lavorando, convincendolo, è venuto a uno che sta lì tutti i giorni. Sì, certo, certo. Grazie Franco, a presto. Saluti. Ciao, ciao davvero. Allora, fermiamoci per la borsa e poi torniamo con altri temi, altri argomenti, perché parte il moto mondiale. Ma siete sicuri che l'Inter deve avere tutti questi rimpianti? Se stasera vince a Ferrara va a 6 punti. Metti che la Juve perde con la Lazio, la Juve delle ultime 3 giornate non mi sembra il massimo. L'Inter dovesse vincere va a 3 punti e mancherebbero ancora 4 giornate. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. È stato molto importante poter fare questa giornata di test, perché era veramente tanto tempo che non salivamo sulla MotoGP. Negli ultimi anni Jerez è stata molto difficile per la Yamaha e in particolare per me. Sulla carta sarà ancora più dura con questo caldo, perché veramente condizioni estreme è molto molto difficile. Però come prima giornata è stata positiva. Ancora ci sono vari aspetti dove possiamo sicuramente migliorare, perché non mi sento a mio agio quanto vorrei. Questo giorno è servito per avere input e vedremo se nel weekend gara riusciremo a mettere tutti insieme. La Ducati vuole aspettare qualche gara prima di prendere eventuali decisioni. Questa è una cosa che ti dà più motivazione, ti lascia indifferente o da un certo punto di vista ci dispiace? Non è un problema, niente di nuovo, e ci concentriamo per fare prestazione come tutti gli anni. Non mi è mai successo di stare a casa così molto, ecco. Ho visto che a casa sto molto bene e questo è positivo. E però ho anche visto che ho voglia di continuare a allenarmi e di esserci. Quindi 99% l'anno prossimo ci sarò con Petronas. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, abbiamo aspettato così tanto e così disperatamente che credo che questo primo weekend della stagione del moto mondiale provochi addirittura qualche sentimento, qualche brivido emotivo anche a due vecchi lupi di tassello che sono miei amici e sono in linea. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Carlo, ben ritrovati a tutti. E vabbè, ti dico, mai così tanto nella vita è mancata la voce di Guido Meda. Che carino, grazie, ciao, buongiorno, ciao Roby, ciao Carlo. Ciao Guido, ciao. Carino niente, mi sei mancato, è vero, ma sei mancato a tutti, insomma non vediamo l'ora di risentirti da domenica questa e poi tutte le domeniche. Ti dirò che a me sta succedendo una cosa che non mi succedeva da tipo 20 anni, che è quella di avere le farfalle nella pancia. Oh. E, cioè, ce l'ho un po'. quella tensione che spero poi in fin dei conti sia una tensione sana, intanto perché abbiamo dovuto rivoluzionare un po' tutta anche la maniera di produrre e di raccontare, quindi ho l'ansia che qualcosa vada storto. E poi perché in effetti è stata così lunga la pausa e in maniera così anomala che ha generato dentro qualcosa di diverso rispetto alla routine degli anni passati. Allora Guido, Roberto, facciamo agenzia subito. Guido Meda è emozionato, ha le farfalle nello stomaco. No, beh, mica non, sì, mi emoziono sempre, piango davanti a Tom e Jerry. Tu Roby? Allora gli do il claim, il brivido ma non il rischio, che non deve sostituire tutti in piedi sul divano, eh. Però può essere, capito, questa cosa che è un po' uno stimolo, brivido ma non il rischio, insicurezza. Io sono spaesato perché non sono più abituato, avevo perso il conto, perché mancandoti quella roba lì non ti ritrovi e da un lato è bello perché sembra un po' riniziare tutto da capo, anche se purtroppo i valori in campo ieri ci hanno detto che sì, c'è una Yamaha nuova, cioè c'è una forza Yamaha nuova, Jerez non è una pista Ducati, però c'è la Yamaha che torna a essere protagonista. Infatti volevo chiedere a Guido, queste Yamaha come mai sono così veloci e sono state così forti? Ma io credo che già al finale dello scorso anno ci avesse detto perlomeno che con Vignales, con Quartararo e anche un po' con Morbidelli la Yamaha fosse migliorata, e che i tremendi problemi di consumo della gomma posteriore fossero stati un po' mitigati da un lavoro che è stato fatto in termini di elettronica e di ciclistica nel corso della stagione. Solo che poi noi abbiamo come riferimento inevitabilmente Valentino, per cui associando Valentino alla Yamaha abbiamo sempre avuto un po' la sensazione che la Yamaha andasse meno del dovuto. Era rimasto un problema, che secondo me però è ancora abbastanza evidente, che la Yamaha senza dubbio, e ne riparleremo, vedrai, nelle gare che verranno più avanti su piste più veloci, è rimasta una moto che a motore non sta benissimo. Quest'anno, in più, che forse va un po' dalla parte della Yamaha, ma soprattutto di quelli con la guida rotonda, c'è la nuova carcassa portata dalla Michelin. La nuova gomma posteriore portata dalla Michelin, in teoria, aiuta chi guida rotondo, quindi potrebbe voler dire ad esempio che penalizza un pochino Andrea Dovizioso, che ha imparato a guidare la Ducati come la Ducati vuole essere guidata. Mi rendo conto che sto bruciando dei temi, però sono variabili importanti che si presenteranno. Tra l'altro Dovi ha detto che non sente la gomma, c'era tanto caldo, problemi di caldo per tutti, ma è più quello il problema vero o il contratto che non si firma? Anzi, si firma o non si firma? Guido, secondo te sta basta? Rispondo io. Allora, molto secondo me le due cose insieme. Dovizioso, come tutti i piloti, è certamente un individualista, perché è giusto che lo siano, e quindi sono egoisti nelle relazioni tra loro, specie quando poi devono giocare in pista sul filo del millesimo, ma non è disumano. E questa cosa lo disturba molto, anche perché l'alternativa a non firmare con la Ducati è rimanere a casa, e per uno che ha fatto 3 volte secondo nel mondiale, magari con modalità differenti da un anno con l'altro, però è evidentemente una mutilazione grave. E direi che però in questo momento il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Ducati, ce l'ha proprio la Ducati. Qui si tratta di definire un abbassamento dell'ingaggio in relazione alle esigenze, diciamo, aziendali e industriali della Ducati, che comunque anche degli operai che lavorano in catena di montaggio e i conti li deve fare. Però anche di riconoscersi un po' vicendevolmente i meriti, cioè che Dovizioso riconosca i meriti della Ducati, che la Ducati riconosca i meriti di Dovizioso. Questa cosa, secondo me, loro nel tempo bene bene non l'hanno fatta. E poi quando si arriva a dover definire è un po' più difficile parlare soltanto di soldi se nessuno dei due ci ha messo un po' di cuore nei confronti dell'altro. Sì. E io ho una gran paura, anche perché mi verrebbe da dire, Carlo e Roby, che Jorge Lorenzo è quasi certamente ai blocchi di partenza, cioè è lì che aspetta. Senti Guido, io volevo una tua opinione per poi lasciarti andare a un lavoro che immagino lunghissimo, soprattutto in questi primi weekend per i motivi che dicevi. Volevo un tuo commento su altre due storie di mercato, già che ci siamo. Prima è, l'abbiamo sentito anche prima, sono i famosi 2 anni di Valentino Rossi, poi il primo c'è, il secondo vediamo in Petronas. Ti sorprende? No, non mi sorprende. Diciamo che la firma manca, lui parla di questo 99%, mi sorprende ma mi stimola, nel senso che secondo me, non so se anche, se anche voi siete d'accordo, per un pilota che sta correndo da, dunque, tranne la parentesi Ducati, una quindicina d'anni con quella moto lì e con quel gruppo di lavoro lì, passare ad un altro team può essere in qualche modo uno stimolo. Mi ha molto colpito la maturità con cui Rossi ha scelto in qualche modo di rientrare in Yamaha, sì, ma dalla porta di servizio, la serenità con cui ammette di non essere più il punto di riferimento, nel senso che sa che sarà Quartararo che fa le scelte e probabilmente dentro di sé anche un po' di gusto sadico di mettersi alla finestra e vedere che cosa succederà. Però non è più quel Valentino che si incazzava come un puma se faceva secondo o terzo. Oggi è un uomo maturo e di buon senso che sa che quando becca un terzo o quarto posto dopo aver fatto una gran bella gara ed essersi divertito, va anche bene così, ecco. Non dirmi che ha raggiunto la pace dei sensi, perché non ti credo. No, la pace dei sensi no, perché altrimenti farebbe un altro mestiere. Ma lì ce la devi avere. Però è cambiato. Avete visto che fotine che posta, è romantico, è diventato tenero. Anche un po' innamorato, Senti, Guido, solo tu lo puoi sapere. Quindi confermi che è Quartararo che decide, anche la squadra, i meccanici e tutto? Solo l'anno tu prossimo. La priorità è Quartararo, è certamente Quartararo. Quindi cioè, può portargli via i meccanici anche, ma può, volendo portargli via i meccanici, fare decidere di sport? Ammesso che gli interessi di farlo, sì, potrebbe. Allora, poi, essendoci di mezzo Valentino, che comunque per Yamaha azienda rimane un faro, tanto che non ha mai mollato la relazione con Yamaha, lui parla prima con Yamaha e poi con Petronas, un po' la sua la dirà, però la precedenza è certamente a Quartararo, il quale io però non credo che andrà a saccheggiare il bacino tecnico di Valentino Rossi. Sì, credo che piuttosto se li divideranno un po', ecco. Penso, ma ho come la sensazione che non andrà a rubare a casa del re. Io lo penso anch'io. Grazie, Guido. Anche perché fino a qui è andato tutto molto bene a Quartararo, per cui con quel team lì sta bene. Certo, buon lavoro Guidone. Quest'anno. Io su quel divano ci faccio il nido a partire dal venerdì di prove. Ciao Guido. Noi cominciamo oggi alle 5, canale 208. Ricordatelo, grazie. Presente. Un abbraccio. Ciao Guido, traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. A chi posso chiedere un prestito per comprare un'auto nuova? A noi. E per ristrutturare casa? Sempre a noi. Con Poste Italiane puoi accedere a un'ampia gamma di prestiti personali per realizzare i tuoi progetti. Perché non abbiamo mai smesso di dare risposte ai tuoi bisogni. Scopri le offerte su poste.it o all'ufficio postale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prestiti BancoPosta sono prodotti di finanziamento collocati da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta ed erogati da Intesa San Paolo S.p.A. esclusivamente presso gli uffici postali abilitati. Compass Bank S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Findomestic Bank S.p.A. in virtù del relativo accordo distributivo non esclusivo sottoscritto fra le parti, senza costi aggiuntivi per il cliente. Tutti convocati. Allora Roberto, c'è un'altra questione di mercato che vorrei affrontare, ne abbiamo già parlato ma mi intriga molto, perché insomma faccio 2+2 salutando Roberto Rossi, che è motorsport manager di KTM. Ciao Roberto, ciao. Benvenuto. Ciao. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. L'avete già sentito che è di Terni. Allora, Roberto Rossi è ternano. Io faccio 2+2 da giornalista. Petrucci è più che un fratello per lui, e questo lo so. Quanto ci hai messo a convincerlo? Ma ce l'hai con me? Sì, ce l'ho con te. Ma convincere Danilo, diciamo che facciamo una premessa. Danilo è un pilota che è diventato tale per la passione che ha per le moto, quindi convincere un pilota che ha una passione così innata e così furibonda come Danilo per correre con KTM credo che sia semplicissimo, immaginavo. ti lascio a Roberto Ungaro. Robby. Ciao Robby, anche perché risolve il problema della moto da cross con cui allenarsi. Porca miseria, guarda, Vi faccio una confidenza. Sì, tanto Pete non ci ascolta Byron. Nessuno, vai Rob, non ci ascolta nessuno, siamo noi. Vai, vai. Pete Byron, che è il Motorsport World di KTM e non solo, praticamente ha commentato così la firma di Danilo Petrucci: abbiamo conquistato un buon pilota, abbiamo perso un ottimo cliente. No, anche perché insomma, Roberto, ti convocheremo diverse volte in questa stagione, perché questo, tra l'altro, Petrucci va bene dall'anno prossimo, ma questo deve essere l'anno della decima, giusto Roberto Ungaro? Perché noi speravamo tutti in Ducati, anche perché il colpaccio lo ha fatto, perché ha portato a casa 25 punti. E da lì però, tu che sei il suo vero mental coach, Robby. Perché ragazzi, gli altri piloti hanno delle figure professionali, tutte iper, ma il vero di Petrucci è Roberto Rossi, che detto così come l'hai... spacciando per quello che non sono. Come, Carlo, come l'hai annunciato tu, sì, sembra l'ira di Dio. E invece... vive nel fuoristrada, è veramente pane salame ed è la cosa più, cioè, uno di noi. Quindi gli voglio già molto bene. Ovviamente. Lui con Danilo sono fratelli e ci può dire la vera verità. Sì. Guarda, se io fossi fratello di Danilo significherebbe che avrei davvero pochi anni, e questo è un complimento che non merito, perché l'anagrafe poi purtroppo gioca a mio favore. Perché si è sgonfiato tutto a un certo punto? Sono un grandissimo tifoso di Danilo, perché Danilo l'ho visto dalla pancia della mamma, io sono andato a scuola con la mamma, quindi purtroppo ho dovuto sempre mostrare delle foto con maglie diverse, stesso cuore, e finalmente potrò portare la stessa maglia con lo stesso cuore. Quello che è successo a Danilo l'anno scorso probabilmente è stato quello che Danilo magari tante volte aveva sognato, ma non gli era mai accaduto, cioè trovarsi ad amministrare un terzo posto nella classifica della MotoGP mondiale e dover comunque fare i conti con compagni di squadra, Valentino Rossi, timori riverenziali, il suo essere magari troppo buono. Quindi questo mix di cose può darsi che gli abbia creato un minimo di confusione, per cui l'amministrare quella situazione gli ha fatto perdere di vista quello che invece un pilota non dovrebbe mai perdere di vista, ovvero fare il risultato, concentrarsi sulla gara e non guardare troppo indietro. Tu, Robby, che sei stato un pilota vero, sai che quando il pilota si guarda indietro poi è facile che commetta degli errori. No, è finita, non ci si guarda mai indietro. E quindi no. Lui doveva pensare ad andare avanti, il terzo posto in classifica lo aveva conquistato meritatamente, perché poi alla fine non è che è arrivato ultimo, è arrivato terzo. No, certo. No, allora, ormai Roberto Rossi è ufficialmente iscritto nel club di tutti i convocati, però abbiamo ancora 30 secondi per far dire a Roberto Rossi, che è sempre stessa maglia, cioè quella arancione, sarà l'anno di Tony Cairoli. Ma guarda, anche questa è un'altra bella scommessa, e anche qui vi confido un altro piccolo segreto, cioè nei programmi di KTM di Tony Cairoli non c'era il 2021, perché probabilmente, insomma, per come sarebbe andato a finire questo 2020, Antonio aveva deciso di smettere, poi di non correre più nel 2021. Poi le cose sono andate come sono andate, e quindi Antonio ha detto: no ragazzi, io voglio correre anche nel 2021. Ma ovviamente le aziende poi fanno i conti con il loro budget e con quello che era stato programmato, quindi sì, siamo dovuti andare... Sì, però è qualcosa di troppo grande per non proseguire, per non andare fino in fondo a questo sogno qui. Ragazzi, io vi devo ringraziare perché devo chiudere il programma, ma ovviamente siamo solo all'inizio della stagione dei motori, e i motori qui sono di casa. Grazie a Roberto Ungaro, ovviamente, a Roberto Rossi, a Filippo Oreggi, Gianmarco Ferronato, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, ci sentiamo domani alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!